Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Cari amici, buonasera. Stasera è solo Gesi che vi augura la buonasera, perché Antonio ha dovuto andare via per ragioni familiari. Comunque dai, speriamo di poter sostenere bene la trasmissione. Stasera abbiamo un ospite in studio, il signor Pier Federici Alessandro, che ci presenterà un libro che ha scritto lui, e poi abbiamo anche il suo editore. Allora, salutiamo il signor Alessandro Federici, buonasera. Buonasera. E poi salutiamo l'editore, l'ingegner Crivellaro Luigi. Caro Luigi. Cara Gesuina, buonasera. Buonasera. A tutti. Ecco, come è intitolato il libro? Ascesa al regno degli immortali. Che è il secondo, no? Sì, è il mio secondo romanzo. Ecco, allora io volevo dire che appunto noi trasmettiamo sulla lunghezza d'onda di 94,6 e 88,7. Poi potete anche ascoltarlo anche in streaming su blu-radioveneto.it e potete fare anche il podcast il giorno dopo e potete tenervi e tirarvi giù la trasmissione e tenervela da conto. Ecco, sì, perché insomma le trasmissioni, modesti a parte, sono abbastanza buone e quindi penso che valga la pena tenerle. Allora, prima di dar la parola ai nostri ospiti, facciamo ascoltare una canzone ed è intitolata Vattene Amore, cantato da Mietta e da Amedeo Minghi. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no, spensierato sei contento. Vattene amore, che pace più non avrò, ne avrai. Perderemo il sonno, credi di no, i treni e qualche ombrello, pure il giornale leggeremo, male caro vedrai, ci chiederemo come mai il mondo sa tutto di noi, magari ti chiamerò rotolina amorosa e tutto ta, ta, ta, e il tuo nome sarà il nome di ogni città, di un gattino annaffiato che mi adorerà, il tuo nome sarà sul cartellone che fa della pubblicità, sulla strada per me io col naso in su, la testa ci sbatterò, sempre là, sempre tu. Sorridente truffatore, vattene un po', che pace più non avrò, ne avrai. Vattene o saranno guai, che piccoli incidenti, caro vedrai, la stellare guerra che ne verrà, il nostro amore sarà lì, tremante e brillante così. Ancora ti chiamerò rotolina amorosa e tutto ta ta ta, e il tuo nome sarà il freddo e l'oscurità, un gattone arruffato che mi graffierà, il tuo amore sarà un mese di siccità e il cielo non c'è, pioggia fresca per me, io col naso in su, la testa ci perderò, sempre là, sempre tu, ancora un altro po', e poi ancora non lo so, ancora ti chiamerò. Eccoci di nuovo in studio e adesso diamo la parola all'editore ingegnere Luigi Crivellaro, che ci leggerà qualche nota biografica del signor Pier Federici. Mi fa veramente piacere introdurre una breve biografia di Alessandro Pier Federici, perché è un autore giovane, parlo di autore di opere letterarie. Naturalmente lui ha una carriera di musicista già molto consolidata alle spalle, ma anche come scrittore è un giovane autore consolidato, educato al linguaggio della grande arte musicale, che è capace di trasferire sulla pagina scritta. Alessandro Pier Federici è nato a Treviso, è musicista e scrittore, diplomato in pianoforte e composizione nei conservatori italiani e in direzione d'orchestra nei Wiener Meisterkurse di Vienna. Svolge attività internazionale di docente, pianista accompagnatore di cantanti lirici e direttore d'orchestra. Si è esibito in Francia, Irlanda, Isole Canarie, Grecia, Stati Uniti e Giappone, nonché in molte città d'Italia. E ha lavorato presso numerosi teatri lirici, festival, concorsi e corsi di perfezionamento nazionali ed internazionali. Dal 2008 è fondatore e presidente dell'Associazione Culturale Musica Emozioni di Treviso, che si occupa della formazione e della promozione di giovani studenti ed artisti della lirica, attraverso la creazione e l'organizzazione di eventi musicali legati ad altre espressioni artistiche, alla storia e alla letteratura. Per Musica Emozioni è l'ideatore delle tematiche e dei programmi di tutti gli eventi, ai quali prende parte direttamente come relatore e pianista. La sua passione per la letteratura data dai tempi di scuola e si è manifestata con regolarità negli anni attraverso la creazione di opere poetiche, narrative, fiabe e racconti e saggistiche di argomento prevalentemente musicale, tuttora inedite. Nel 2011 ha pubblicato il suo primo romanzo, Ritorno al tempo che fu, delle Edizioni del Leone, molto apprezzato dalla critica, la cui prima edizione è andata esaurita, e da allora affianca all'attività musicale quella letteraria, con saggi, conferenze di argomento musicale, fra le quali quelle tenute nel 2013 sulla figura di Giuseppe Verdi in occasione del bicentenario della nascita, e pubblicate nel sito www.literary.it e recensioni ed articoli pubblicati su vari portali online. Il suo testo drammatico narrativo Carmen da Mérimée a Bizet, realizzato per l'omonimo spettacolo musicale, ha debuttato nel 2011 a Montebelluna nell'ambito della rassegna Un libro all'opera ed è stato ripreso nella rassegna Metti una sera in musica 2012 del comune di Thiene, in provincia di Vicenza. Nel dicembre 2013 è uscito il suo secondo romanzo Ascesa al regno degli immortali, Edizioni LCE Biblioteca dei Leoni, tormentata storia ambientata a Trieste e Vienna a cavallo fra 800 e 900, di un musicista diviso fra l'aspirazione ad un'arte ideale e la necessità di confrontarsi con la realtà. Bene, molto interessante questo curriculum. Allora, adesso diamo la parola al signor Pier Federici. Vuol parlarci subito di questo libro o vuol parlare un pochino delle sue, di quello che fa, di quello che... Quindi lei mi dica cosa svolge, cioè che mansione svolge nella vita? Allora, io sono, come appena letto l'ingegner Crivellaro nella mia biografia, musicista fondamentalmente. La mia formazione è musicale, ho iniziato l'attività di musicista molto giovane e parallelamente scrivevo. Ecco, questo è il motivo per cui dico sono scrittore e musicista, perché in realtà non è che a un certo momento la scrittura è entrata nella mia vita. La scrittura ha sempre fatto parte della mia vita, esattamente come la musica, ma la musica è diventata una professione praticamente da subito, appena diplomato. La scrittura è rimasta sempre qualcosa a livello così di confessione intima, quel qualcosa che ci tiene compagnia nei momenti tristi, nei momenti malinconici, anche nei momenti felici, e che poi rimane come una specie di diario nel cassetto. Intanto la mia vita di musicista mi ha portato in giro per l'Italia, in giro per il mondo, a conoscere persone, partecipare a eventi anche abbastanza importanti, sia in Italia che all'estero, conoscere appunto anche musicisti importanti, eseguire concerti in luoghi indimenticabili. Io ho suonato a Parigi, ho suonato a Tokyo, ho suonato a Los Angeles, sono esperienze che poi uno si porta dietro per tutta la vita. Finché a un certo momento la necessità di esprimermi, di creare. Ecco, perché di creare? Perché io come musicista sono sempre stato un interprete, un insegnante, non ho mai avuto né lo stimolo né l'ispirazione di creare musica. La mia parte creativa si è espressa, è venuta fuori poi nella scrittura, nella letteratura. Ecco, ciò che avevo accumulato negli anni di attività musicale come confessione intima, autobiografica, come idee di racconti, di poesie piuttosto che di canovacci di romanzi, è venuto fuori. Un primo romanzo iniziato in anni che sembrano ormai preistorici, nel 1994, nel corso di alcuni anni è stato completato e poi, dopo essere rimasto altri 10 anni nel cassetto, ha visto la luce appunto 3 anni fa. Il primo, questo romanzo del 94, come si intitola? Ritorno al tempo che non fu. Ho capito. Sì. E di che cosa parla in sostanza? È una storia di un individuo che raggiunge la consapevolezza di sé attraverso un viaggio, che è un viaggio sia esteriore, attraverso dei luoghi lungo un fiume, sia interiore, alla ricerca dei valori che la vita gli aveva portato via. E quindi è una sorta di percorso, se vogliamo, quasi iniziatico, un percorso di recupero dei valori della propria esistenza e della vita e del contatto con gli altri. Parte da una condizione di disperazione e compie questo percorso che lo riporta a ritrovare se stesso come una sorta di fiaba e realtà contemporaneamente. Invece in questo ultimo romanzo, Ascesa al Regno degli Immortali, è molto, un titolo molto suggestivo ed è un romanzo abbastanza complesso, vero? Direi di sì, perché questo romanzo raccoglie in un certo senso la mia esperienza di musicista e la fonde con la mia aspirazione letteraria. Ecco, è proprio quasi un romanzo simbolo di quello che sono io. Perché è un musicista che scrive la storia di un musicista. Sì, è vero. E quindi tutta l'esperienza, se vogliamo, autobiografica, che non è solo quella pratica del musicista, ma quella emotiva, quella sentimentale che ho vissuto nella mia attività musicista e nella mia vita reale, trova spazio in questo libro. Si trasferisce, diciamo, nella percentuale massima nel protagonista, ma anche in alcuni dei personaggi di contorno. E quindi direi che posso considerarlo quasi, non dico l'opera della vita, perché spero che ne verranno anche altre, ma in questo momento è proprio l'opera che condensa nel maggior grado quelli che sono i miei aspetti umani più tipici. Adesso sentiamo un momentino che cosa ne pensa l'editore di questo romanzo. Io che ho fatto stampare questo romanzo, l'ho letto naturalmente prima di metterlo in pubblicazione e ne sono rimasto colpito, ne sono rimasto affascinato, perché si tratta di una vicenda complessa, come già è stato detto, ma soprattutto una vicenda che riporta a un'ambientazione particolare, un momento della vita europea di trapasso dalla cosiddetta Belle Époque alle rovine della Prima Guerra Mondiale, e quindi la capacità e l'abilità dello scrittore di rendere questa atmosfera di attesa di un cambiamento, di attesa di una sciagura incombente, mi si è rivelata come una delle migliori qualità di questo romanzo. Oltre a questo, direi che è affascinante il conflitto interiore del personaggio del protagonista, che è un grande musicista, che è un grande, naturalmente è un grande musicista, ma vive una serie di crisi, sì, sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista esistenziale. Chiamiamolo così, esistenziale. Eh sì, è vero, difatti si nota molto qui in questi scritti. E allora adesso ci ascoltiamo una canzone e poi leggeremo, intanto cominciamo a leggere un brano. Allora, la seconda canzone in programma è cantata da Adriano Celentano, Quello che non ti ho detto mai. Nuovo in studio con i nostri ospiti, il signor Alessandro Federici, che ha scritto questo libro Ascesa al Regno degli Immortali, e il suo editore, l'ingegner Luigi Crivellaro. Allora, io vorrei leggere, che Dio me la mandi buona, un pezzo, una parte dalla prima parte del capitolo 9. Vediamo un po' di leggere. In quell'ultima lezione, dunque, Anton, sollevato nell'animo da questa intima, totale confessione, portò la sua composizione al professor Kohn, che le diede attenta occhiata, scorrendola rigo per rigo più volte, per alcuni lunghissimi e silenziosi minuti. Kohn alzò lo sguardo su di lui. Lo scrutò con attenzione, come se lo guardasse per la prima volta, e i tratti del suo volto gli fossero sconosciuti, e vi scoprì i segni della stanchezza notturna e della lotta interiore, e forse di qualcosa d'altro che solo lui vedeva. Senza dire una sola parola, andò al pianoforte, si sedette, distese sull'elegio i fogli di carta da musica che celavano sotto quei segni la voce più pura dell'anima del suo allievo e suonò subito, perfettamente, la romanza. Dopo l'ultimo accordo, in silenzio carico di insondabile inquietudine, con il maestro si volse verso di lui, lo guardò ancora, scorgendogli altri insondabili segreti, e disse: «In questa musica è custodito il sacro fuoco dell'arte e della creazione. Lei lo possiede, lei sa di possederlo, ma ha paura di cercarlo, o forse teme di trovarlo. Lo cerchi dove non ha mai voluto, nel suo cuore. Abbia il coraggio di ascoltarlo, finalmente. Non si rifugi in un'esistenza comoda, ma finta, col pretesto di concentrarsi solo sulla musica. L'artista vive nel mondo, soffre, piange, gioisce con il mondo, e questo dà vita alla sua arte. L'artista vive con la propria umanità, non la rinneghi. Nella vita ci sono gloria e delusioni. Nella rinuncia alla lotta vi è solo la sconfitta. Vuole essere ricordato come colui che aveva la sacra missione di far ardere il suo fuoco e lo ha invece spento? Vuole essere qualcuno che passerà su questa terra ignorato e poi dimenticando, quando possiede invece il talento per stare nella storia? Non finga più con se stesso. Non abbia paura di soffrire. Solo quando avrà conosciuto il dolore vero, la sua arte diventerà la voce stessa dell'universo. Soffra e benedica la sua sofferenza quando verrà, perché sarà ciò che le donerà l'immortalità». Si alzò, raccolse la musica, la restituì all'allievo e, stringendogli la mano, con accento quasi commosso gli disse: «Ci vediamo all'esame». E uscì rapidamente dalla stanza, lasciando solo Anton con il primo vero canto della sua anima tra le mani. Bello questo capitolo. Grazie. Vuole parlarcene un pochino? Beh, questo fa parte della prima parte. La prima parte è il percorso di memoria del protagonista, che ricorda a un certo momento della sua esistenza tutto la sua infanzia, la sua giovinezza, la sua formazione, i suoi studi, i suoi primi concerti e le sue prime delusioni, sia musicali che sentimentali. Il professor Kohn, questo maestro di cui appunto racconterò anche in un capitolo la storia, questo anziano maestro che si è di fatto rifugiato a Trieste dopo varie vicissitudini della sua famiglia, che non ha più purtroppo, si consacra alla formazione di questi giovani studenti, ha una missione che è quella appunto di far proseguire, di portare avanti questo enorme patrimonio che è la musica, e Anton gli si affida completamente, trova in lui quella figura paterna che in realtà non trova nel padre. Il padre osteggia questa vocazione musicale del figlio, e quindi la figura del maestro Kohn è il punto di riferimento, la luce, se vogliamo, del giovane studente Anton, colui che non è solo un maestro di musica, ma, come abbiamo potuto sentire in questo passo, anche un maestro di vita, un maestro che porta l'arte nella vita. Ciò che Anton fa fatica a capire, perché questo giovane, come tutti i giovani in genere, avrebbe voglia di spaccare il mondo, di cambiare le regole dell'universo, di diventare il primo di tutti e di creare un'arte ideale, un'arte lontana dalla realtà, un'arte assoluta che stia molto più in alto della mediocrità e della quotidianità, e vive di questa illusione. E il maestro Kohn è uno dei primi che lo sollecita fortemente a seguire invece un altro percorso, quello di vivere nella realtà. Infatti è come un padre per lui questo maestro. Sì, perché... è come un padre. E poi quando nella seconda parte, che si svolge 15 anni dopo questo percorso della memoria, Anton si ritira nella sua delusione in una solitudine di 15 anni e poi riprende il suo percorso sia umano che artistico. Ecco, nella seconda parte ritroverà questo maestro Kohn. Non voglio anticipare in che situazione, perché secondo me è uno dei momenti più suggestivi, più commoventi, più belli di questo romanzo. Incontrerà appunto dopo 15 anni questo maestro di nuovo vecchissimo, e ne riceverà, se vogliamo, indirettamente la definitiva consacrazione. Allora, vogliamo leggere, magari legge lei un editore, un capitolo di questa seconda parte? Sì. Io dopo leggerò, mentre se ne stava appresso, quindi voi leggete. Sì. Allora, un pezzettino della seconda parte, dal capitolo ottavo. Sì. Vi anticipo un attimo soltanto di che cosa si tratta. Nella seconda parte, appunto, dicevo, il protagonista riprende la sua attività e comincia a frequentare appunto i teatri, le sale da concerto, e comincia a affermarsi veramente nella pienezza del suo talento. Ma questo non è senza un prezzo, uno scotto duro da pagare. Cioè, il vivere dentro la vita significa anche sporcarsi le mani, significa anche soffrire, significa appunto sudare, sputare sangue. E tutto questo però contribuisce a creare quella che è la figura, l'emozione, l'anima stessa dell'artista. Bene, fra le persone che incontrerà nella sua vita ce n'è una che io introduco appunto nel capitolo ottavo della seconda parte. Siamo di nuovo a Trieste dopo un giro di concerti. Anton sta per eseguire un concerto insieme a una cantante che ha conosciuto proprio per l'occasione, che si chiama Katarina. Ecco, stiamo in attesa di questo concerto. Fra il pubblico che affollava l'ingresso del teatro comparve un giovane vestito elegantemente, che alcuni dei presenti riconobbero, indicandoselo reciprocamente e commentando la sua presenza, mentre altri si scostarono prontamente. Il suo volto era incorniciato da una barba corta e ispida e da una folta chioma liscia e pettinata all'indietro. Gli occhi attenti erano accesi e intensi come lampi, mentre da ogni suo gesto sembrava emergere una passione concentrata e soffocata, chiusa nel proprio mondo, un temperamento sanguigno costretto a reprimere le proprie emozioni. Si aggirava inquieto tra la gente, con un vago senso di oppressione, scrutando ora l'uno ora l'altro, come una belva che tentasse di trovare una via d'uscita da una stretta gabbia. I suoi sguardi balzavano da un volto all'altro, da un ornamento del soffitto al lucido pavimento marmoreo, da un lampadario sfolgorante di luci ad altra gente che sopraggiungeva. Aggirandosi tra la folla, percepiva frammenti di dialoghi, commenti divertiti, risate trattenute, ed un'indignazione profonda gli si dipingeva in volto. Pareva ad ogni istante sul punto di prorompere in un grido furioso, stringeva i pugni, serrava nervosamente la bocca mordendosi le labbra. Lo si sarebbe detto l'unico superstite di una cruenta battaglia che si aggirasse tra mucchi di cadaveri, avvolto dal silenzioso, fetido odore della morte, e cercasse con affanno un segno di vita, un minimo respiro, un occhio non del tutto chiuso, e atterrito vedesse attorno a sé solo una folla di spettri in una sorta di danza macabra. Il suo volto si rasserenò solo quando vide apparire alla porta un ragazzo e una ragazza, ai quali andò subito incontro dicendo: «Finalmente, non ce la facevo più. Ho bisogno di persone vive. Guardate questa gente, uomini e donne. Sembrano felici, sono ricchi o benestanti, vogliono bene alle loro famiglie, ai loro figli e ai loro amanti. Discutono e fanno affari, obbediscono alle leggi e all'autorità e non mancano mai di farlo notare. Partecipano alla vita sociale e ne sono fieri, forse fanno anche della beneficenza e lo raccontano. Sembra una vita lieta. Bei vestiti, feste, concerti, occasioni mondane e soprattutto il culto per le divinità di oggi, onorabilità e rispettabilità. Ma ogni giorno è uguale all'altro, superficiale, monotono. Guardateli, sono cittadini esemplari e sembrano persino interessati a ciò che fanno, ma dentro di loro, nascosto nella voragine invisibile delle loro coscienze, c'è l'ignoto. Tutto ciò che credono di non essere e tutte le emozioni che credono di non provare. Là sono nascosti indifferenza, invidia, odio, violenza. Nessuno di loro sa chi è veramente, né che ogni sua azione ed ogni suo sentimento non è in suo potere. Non sanno ciò di cui sarebbero capaci, nel bene e nel male. E la nostra arte, che ha intuito questa verità, viene disprezzata e ridotta al silenzio. Parliamo ai fantasmi di un mondo che già ora non esiste più, ombre che respingono la verità, perché la verità è dura, difficile, scomoda e mette l'anima di fronte a se stessa. Bello questo pezzo, vero Luigi? Sì, molto bello. Molto significativo. Molto significativo, perché introduce un personaggio che mi sembra impersonare l'ansia di cambiamento, di rovesciamento addirittura della società di allora, che era solo in apparenza una società felice, una società festosa, ma in realtà soprattutto in quelle categorie, in quelle parti della società meno fortunate, era una società durissima, crudele, violenta e in attesa della crisi, diciamo così, purificatrice, cosa che si potrebbe anche trasportare ai tempi di oggi. Sì, effettivamente sì, perché superficialità ce n'è tanta in questi anni, insomma. Purtroppo mi sembra che la storia ci riporta periodicamente, ciclicamente, situazioni molto simili e le soluzioni non si sa mai se riusciamo a trovare delle soluzioni nuove e originali oppure se ci limitiamo a ripetere gli errori del passato. Ma questo è un po' un enigma. Bene, allora ci fermiamo qui, ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che è cantata da Rosanna Fratello, Va Speranza Va. Portami quando è sera, come la prima volta che t'ho incontrato. Stretta nelle tue mani, là dove il fiume ha visto il primo amore. Avevo 15 anni e le tue mani strinsero i miei capelli. E quanti baci ho dato, come se mi sentissi che te ne andavi. Va, speranza va per chi non tornerà mai più. Va, e non farti non tornare più da me. Lui mi amava, non è più qui con me. C'era quell'atmosfera di chi vuol bene. Tu m'hai cambiato il mondo, tu m'hai creato un volto che non avevo. Avevo 15 anni e le tue mani strinsero i miei capelli. E quanti baci ho dato, come se mi sentissi che te ne andavi. Eccoci di nuovo in studio con i nostri ospiti, il signor Pier Federici Alessandro e l'editore, l'ingegner Luigi Crivellaro. Allora, signor Pier Federici, io le volevo chiedere perché ha dato questo titolo al suo romanzo. Cosa significa? Ascesa al regno dell'immortalità. Sì, allora, il protagonista al termine del suo percorso raggiunge una consapevolezza attraverso appunto l'arte. Inizialmente, dicevo, appunto, c'era questo conflitto fra la ricerca di un'arte ideale staccata dalla realtà, dalla quotidianità, dalla mediocrità del mondo in nome di qualcosa di assoluto, e invece attraverso appunto un dramma continuo, un'esistenza particolarmente tormentata nel confronto con la realtà, il protagonista cambia in un certo senso l'obiettivo. L'arte non è più, la creatività, l'arte non è più il punto di arrivo, ma è il mezzo con il quale si aggiunge una consapevolezza, una conquista ancora superiore, cioè la conoscenza e consapevolezza del proprio ruolo, della propria identità, della propria collocazione in mezzo agli uomini e nella storia. Ecco, proprio questa consapevolezza che appunto il protagonista raggiunge alla fine del suo percorso esistenziale è ciò che gli permette di ascendere a questa immortalità, a questo regno dove sono tutti gli immortali, ossia tutti coloro che hanno trovato la propria vera identità. Ecco, noi stesso sentiamo che cosa ne pensa l'editore di questa. Non vorrei ripetere quello che ha detto l'autore, però il brano che hai letto prima, Gesuina, riguardante il maestro Kong, è molto indicativo a questo riguardo. È una vera e propria dichiarazione costituisce il nucleo o uno dei nuclei del romanzo. Questo presenta infatti, il maestro Kong presenta al giovane musicista Anton il conflitto che si può instaurare tra una concezione astratta dell'arte, una concezione astratta dalla vita reale, e la vita reale stessa, tra una sublimazione in una presunta immortalità costruita dalla propria mente e una autentica immortalità fatta dalle vicende della vita, attraverso le vicende della vita, attraverso l'accettazione di tutti quegli aspetti della vita che possono essere negativi, positivi, ma sono soprattutto, un po' per tutti, costellati da dolori, da anche situazioni drammatiche, da rapporti sentimentali difficili e così via. Allora, leggiamo un altro capitolo della seconda parte, che è il capitolo quinto. Mentre se ne stava oppresso in silenzio, stanco e preoccupato, prese in mano istintivamente la carta da musica e annotò alcuni temi dolcissimi, strazianti, sostenuti da armonie quasi ultraterrene che diventavano improvvisamente violente e ripugnanti, mentre melodie sinuose ed ammaglianti si mutavano in ritmi funebri. La sua mano procedeva macchinalmente, quando Caterina gli si avvicinò in silenzio dietro le spalle, sussurrandogli: «Che cosa scrive, maestro?» Sorpreso, Anton si voltò e la vide fissare la sua musica. «Un brano per canto e pianoforte?» «Sì, sono impressioni trasfigurate in musica. Mi piacerebbe sentirlo cantare da lei, come altri brani che ho scritto in questi giorni.» «E perché no?» rispose un po' divertita la diva, tornando a guardare la musica. Il treno procedeva spedito nella notte, mentre oscurità e silenzio regnavano nella carrozza, evocando in Anton, per un istante, l'angosciosa visione della sua fuga da Vienna. I viaggiatori di prima classe si erano già tutti ritirati nei loro scompartimenti riservati ed anche Buono era andato a dormire, quando Caterina vide che Anton si abbandonava di nuovo ai suoi pensieri, sfiorandogli con due dita il labbro socchiuso e inerte, gli chiese: «Resterà qui a scrivere tutta la notte?» «Non lo so», rispose lui, scuotendosi leggermente. «Forse sì. Allora io mi ritiro. Buonanotte.» Ella fece per allontanarsi, poi tornò verso Anton, che aveva ripreso a scrivere. Soggiunse sottovoce: «Non chiuderò la mia porta prima di mezz'ora.» E si dileguò. Un improvviso ulteriore affanno oppresse il petto dell'uomo e del musicista. Egli guardò più volte la musica che stava componendo e il corridoio da cui si era avviata Caterina, in preda all'incertezza. Gli si imponeva una scelta: restare lì a comporre ed imprimere sulla carta le emozioni del suo cuore, mantenendo integra la sua coscienza, oppure rinnovare egli stesso quelle emozioni e forse aprire la strada a grandi creazioni a prezzo di quello che sarebbe potuto diventare un insanabile rimorso. Era forse giunto il momento di passare dalle impressioni che venivano del mondo fuori di lui alle emozioni che sarebbero sorte dalla sua stessa anima. Se non avesse colto allora quell'occasione, non l'avrebbe fatto mai più. Riposto lentamente il plicco ben chiuso, scacciato le ultime barlume di dubbio che aveva tentato di affacciarsi alla sua coscienza, raggiunse lo scompartimento della diva dagli occhi di ghiaccio e bussò piano alla porta. Dopo pochi istanti, più bella e seducente che mai, ella li aprì. Ecco qua, allora quindi lui aveva anche una lotta interiore amorosa, oltre che... Sì, non solo artistica, ma anche sentimentale. La vita di quest'uomo è costellata fin da ragazzino praticamente, da figure femminili che in un certo senso si contrappongono quasi alla sua vocazione artistica. È come se in un primo momento lui rifiutasse l'idea dell'amore, l'idea di un impegno sentimentale, come se questo impegno fosse qualcosa che appesantisse o impedisse lo sviluppo e il raggiungimento dei suoi ideali, delle sue aspirazioni artistiche. E solo che a un certo momento capisce, ed è troppo tardi, che è invece proprio attraverso un rapporto importante, un rapporto di interscambio con una figura femminile, che questa sua vocazione artistica può completarsi, può trovare nuovo slancio. E la prima conoscenza di fatto con questo sentimento appassionato, molto molto violento, se vogliamo, avviene proprio in questo episodio che si svolge appunto sul treno che porta questi due artisti e il loro impresario, appunto Buono, quello che è stato citato. Ah, ecco, prima. Buono sarebbe stato l'impresario. L'impresario che organizza questa tournée di concerti in giro per varie città d'Europa. Tournée appunto che si conclude a Trieste con l'episodio che ho letto precedentemente. Ecco, durante questo viaggio in treno, spostandosi da una città all'altra per raggiungere appunto la sede del concerto successivo, avviene questo contatto, questo questa intesa amorosa sì, appassionata fra Catarina, questa cantante spregiudicata, geniale, bravissima, ma spregiudicata, colei che mette davanti a tutto esclusivamente la propria ambizione, il proprio desiderio di arrivare al successo come rivalsa, anche qui racconterò in breve la sua storia, rivalsa di una giovinezza, di un'infanzia molto infelici, molto difficili, nella miseria e nel dolore, e quindi giustificando quasi a se stessa questo suo cinismo, questa sua spregiudicatezza, con il desiderio di tornare, diciamo così, in pari con il destino. E Anton si lascia trascinare, appunto, abbiamo visto, più bella e seducente che mai, ella gli aprì, perché lui è andato a bussare alla sua porta. Sì, beh, certo, si era deciso. Ha combattuto. Perché ha combattuto? Perché Catarina è comunque la fidanzata del suo migliore amico, il medico con cui si erano conosciuti da studenti, per cui il problema, il dramma vero interiore di quest'uomo è se io vivo questa passione, tradisco l'amicizia, tradisco un rapporto sincero che data da parecchi anni, ma nello stesso tempo reprimo quello che sento dentro di me. Sì, il mio impulso a conquistare qualunque cosa pur di trasformarla in arte, pur di portare la mia arte. E quindi a un certo momento le ragioni, appunto, del talento artistico e della necessità di vivere nella vita tutto quello che succede per poterlo trasformare in arte prevalgono. Sì, comunque lui è un tipo molto particolare, anche lui. Decisamente, è un artista molto tormentato, si diceva, anche sotto certi aspetti psichicamente instabile. Sì. È un artista che incarna, se vogliamo, proprio quel periodo di decadenza e di preparazione di un dramma che era appunto la seconda parte della Belle Époque, quella che a cavallo proprio del Novecento, sì. In cui di fronte a una fioritura artistica di tutti i generi enorme, perché dalla letteratura alla musica alle arti figurative e anche scientifica, nasce la psicanalisi, tanto per dire, in quel periodo, di fronte a questa enorme fioritura artistico e culturale si avverte però fortemente una sensazione di un tramonto che si avvicina, e gli artisti più sensibili, e nella musica parlo per esempio di Gustav Mahler, che viveva profondamente questo dramma, avvertono questo, quella che è la fine di un mondo, che non è solo la fine storica, è la fine ideale, è la fine di tutta una serie di valori che si erano costruiti nel corso dei secoli, se vogliamo, che avevano trovato il loro culmine appunto nel romanticismo. Per cui a un certo momento io nel romanzo definisco questo momento come una barriera di fuoco attraverso cui tutte le generazioni dovranno passare e non potranno restarne indenni. Ecco, questo è qualche cosa che segna in maniera molto forte, così come quell'epoca, anche il mio protagonista. Bello, comunque, un bel pezzo. Sentiamo che cosa ne pensa l'editore. Io di fronte a questo pezzo che parla di Catarina ho pensato a un altro episodio del romanzo, che è questo. Non so se lo ricordo benissimo e chiedo all'autore di correggermi se sbaglio. A un certo punto c'è un personaggio secondario che è, mi pare, un barone o sì, un barone forse austriaco, sì, viennese, sì, sì, che rappresenta nella sua veste ufficiale, diciamo, tutte le virtù di quella società, di quella dell'alta società di quell'epoca, di quel periodo: onestà, rettitudine, stabilità della società, stabilità della famiglia, fedeltà, lealtà e così via. Ma dopo, improvvisamente, si rimane molto sorpresi perché al contatto con questa Catarina, con questo talento, con questo genio malefico, si rivela meschino quanto e più di tanti altri. È vero o no? Sì, sì, è assolutamente vero, e devo dire che ho inteso anche rappresentare in un certo senso, attraverso questa figura di questo barone, un po' quello che era il tarlo che minava le fondamenta, la società del tempo. Ecco, è un simbolo proprio di sì, questa di questa incombente decadenza che sta per arrivare. Come la decadenza di oggi, che veramente abbiamo perso tutti i valori, proprio la storia si ripete. Sì, sì, assolutamente, ecco, sì. O proprio sì. Allora, vogliamo vedere anche la terza parte? Sì. Ecco, il romanzo appunto è diviso in tre parti, che potrebbero idealmente avere quasi un sottotitolo, cioè appunto La memoria, la prima parte in cui il protagonista, colto in un momento particolare della sua vita, ricorda ciò che è stata la sua infanzia e la sua formazione. La seconda parte potrebbe essere proprio il dramma, cioè il nucleo, sì, centrale del dramma, del conflitto fra ideale e realtà. E la terza parte invece è il progressivo distacco dalla realtà, quindi proprio la vera e propria ascesa. È una parte che gradualmente, con la perdita progressiva degli amici, dei contatti, degli allievi stessi, Anton a un certo momento ha un gruppo di allievi e piano piano si allontanano da lui, perché lo sanno che lui comunque frequenta questi artisti, chiamiamoli rivoluzionari, che artisti che vorrebbero trovare il modo di salvare l'umanità da questa decadenza attraverso l'arte, e quindi il perbenismo borghese dell'epoca fa in modo che queste persone, questi giovani rampolli di famiglie perbene, si allontanino dal cosiddetto artista, fra virgolette, maledetto. Quindi lui rimane sempre più solo, e in questa solitudine inizia il percorso di ascesa. L'ultimo momento sarà proprio la conoscenza dell'amore vero, ma anche di pari passo del dolore. Ma non per Catarina, o sì? No, non per Catarina. Catarina ritornerà tranquillamente dal suo fidanzato ufficiale, anzi, grazie al suo giro di concerti inizierà una carriera prestigiosa molto importante, avrà appunto incontri particolari con il barone del mese, per cui ci sarà tutto un percorso che sembra portare al trionfo apparente di quella che è la superficialità e l'apparenza, appunto. Ma in realtà anche nel percorso di Catarina, così come di altri, sul loro percorso incombe questa barriera di fuoco. E un ritornello quasi del romanzo che riguarda la figura di Anton è questa: la sua consapevolezza che non esiste gioia se non seguita da un dolore. Ma sì, questo è vero. E questo fino al momento, diciamo così, catartico, finale, in cui ci sarà la conoscenza di una gioia che non sarà più seguita da nessun dolore. Questo è, in sintesi, il percorso della terza parte. Allora, leggiamo un pezzetto. Sì. Sì. Allora, io ho preparato un pezzettino della terza parte, del primo capitolo della terza parte, in cui viene... è protagonista del dialogo con Anton un'altra donna molto importante, eventualmente magari ci potremo ritornare, sì, successivamente, Helene von Schifflinger, una giovane vedova viennese che era stata amica della madre di Anton ed era la donna presso la quale Anton aveva alloggiato a Vienna quando si era recato da studente per completare i suoi studi nella capitale. Se Beethoven, Wagner e tutti gli altri non avessero vinto la lotta contro la parte oscura della loro anima, non sarebbero mai ascesi al regno degli immortali. E con loro ogni uomo che abbia avuto la rivelazione del proprio essere e l'abbia perseguita giungendo alla sua piena comprensione. Non c'è lotta più dura di quella contro noi stessi, contro le facili convinzioni, contro le illusioni che noi stessi ci creiamo, contro un volontario svilimento di ciò che siamo, così da non assumerci il nostro vero ruolo, contro le comode fughe dalla realtà. Hai ben visto che ogni cammino è segnato e non si può fuggire ciò che ci è riservato? Prima o poi ci raggiungerà. Ogni conflitto con il mondo impallidisce di fronte allo smarrimento e dalla lotta che ognuno combatte in sé, contro un nemico ignoto che cresce in lui, lo accompagna, vive al suo fianco, senza mai farsi vedere, ma guidandone l'esistenza. Ad Anton quelle parole parvero chiarire le arcane sensazioni che lo coglievano ed inseguivano da anni. Di fronte all'incapacità di spiegarsi perché avesse agito in un certo modo o avesse provato un'emozione che non riconosceva come propria. Chi è votato all'arte risponde a una chiamata del destino e non può rifiutarsi a prezzo della sua stessa vita interiore, proseguì Elena, sempre più ispirata. Lentamente, come se ogni parola che diceva le strappasse un frammento di vita. Colui che spegne il suo fuoco muore nel gelo di un'anima assiderata. Sei stato sempre fortunato, perché ti sono stati richiesti dolori e sacrifici interiori, e perché il tuo destino è venuto a riprenderti. Ora sei davanti all'ultimo passo. Devi accettare del tutto ciò che sei veramente. Se finalmente lascerai uscire dal tuo cuore ciò che ancora vi è rimasto represso, quell'amore che hai rifiutato perché hai creduto ti avesse deluso, allora avrai ritrovato la tua vera natura, quella purezza e pienezza con cui sei nato. Cosa devo fare? Sei un musicista, un grande musicista. Porta la tua vita nella tua arte. Scopri in quelle note il tuo mondo e la tua verità. Combatti la tua ultima lotta, quella con te stesso, contro il destino che hai creduto di sceglierti e che invece potrai superare in una più alta conquista. Fatti guidare dallo spirito, non dalla musica, dei grandi immortali. Bello anche questo pezzo. Mi dispiace, ma siamo quasi giunti alla fine. Sentiamo un attimo che cosa ne pensa l'editore e poi ci salutiamo. Mi dispiace perché magari sarà per un'altra volta che parleremo. Sì. Sentiamo l'editore che cosa ne pensa. Parlando di questa figura di Hélène, che ha una grande importanza nel romanzo, vediamola un istante dal punto di vista del rapporto sentimentale. Dimentichiamo, o meglio lasciamo, diciamo, da parte questa esortazione all'arte e così via, e vediamo questa figura che è in parte molto materna per Anton, ma poi diventa anche una figura di amante. Non so, mi chiedo, chiedo all'autore, c'è qualche aspetto psicoanalitico in questo personaggio? Beh, direi proprio di sì. Io ho avuto sempre ben presente durante la stesura proprio l'idea di questo mistero che è la mente, la psiche, e il mistero da cui nascono le emozioni e le azioni delle persone. Per cui sicuramente l'elemento psicoanalitico in questa figura, così come anche in altre del romanzo, è ben presente, ne ho tenuto molto bene conto. Mi piacerebbe sviscerarlo un po' di più questo romanzo, ma sarà per la prossima volta perché ormai il tempo è scaduto. E ringrazio di cuore il signor Pier Federici che ci ha esposto così questo suo romanzo, e ringrazio tanto l'ingegner Luigi Crivellaro che è stato di vero supporto. Grazie a te, Gesù. Grazie veramente, e a una prossima puntata. Ancora abbiamo ancora qualche istante, vedo. Ne approfitto per dire una cosa agli ascoltatori, che avranno certamente capito che si tratta di un romanzo di una certa complessità, ma di alto livello, e che merita, secondo me, di essere letto e diffuso. E lo si trova lo si trova nelle librerie di Treviso e anche di altre località in tutto il Veneto, anche nel Friuli e così via. E naturalmente lo si può trovare cliccando www.lceedizioni.com, che è il sito della nostra casa editrice, oppure www.bibliotecadeileoni.com. Bene, allora noi ci salutiamo e, a Dio piacendo, ci risentiamo la prossima domenica. Grazie ancora ai miei ospiti e alla prossima. Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.